piano. Di Enrico Zeller. Sei libera finalmente da quei dolori del sogno che danno trafitture e croci, da tanti sordidi amori non ricambiati o forse rifiutati per sempre. Perché noi, con queste chiome sparse per terra, non facciamo che lavare i piedi di coloro che non ci accolgono. La donna artista deve volare alto, ma non volevo che tu avessi una brutta compagna come la morte. La grande poetessa Alda Merini scrive di getto questa poesia che viene pubblicata dal Messaggero di Roma e la scrive il 4 aprile 2004, il giorno dopo della morte improvvisa di una delle più grandi artiste italiane, una delle nostre interpreti più poliedriche, più sensibili, una delle figure più straordinarie generate dal nostro mondo dello spettacolo, spiace dirlo, è anche una delle meno ricordate, e questa è un'eresia. Quindi noi cerchiamo di porre rimedio a questa lacuna. Dedichiamo la nostra puntata di oggi a una donna che Federico Fellini aveva definito una voce, una donna, un clown. La nostra protagonista di oggi è la grandissima Gabriella Ferri. Intanto bisogna dire che l'averla relegata nel solo ruolo di interprete dialettale è già un errore, perché è un ruolo che le va stretto. Lei ha scritto e ha interpretato canzoni intanto non solo in romanesco ma anche in napoletano e in siciliano, ma soprattutto ha spaziato negli ambiti più diversi, ha trasformato un genere poco trattato, quello del folk italiano, l'ha trasformato in qualcosa di molto più grande. Da Roma è andata a Napoli e poi si è aperta all'estero, ha avuto un successo strepitoso soprattutto in Sud America, è passata dalla musica al teatro, è partita dalla tradizione popolare, si è addentrata nella ricerca musicale anche colta, raffinata, quasi antropologica direi, insomma una ricercatrice che aveva delle radici molto profonde nella cultura popolare romana, ma che è arrivata a toccare vette molto alte nell'espressione artistica e è arrivata, come tutti i grandi, al valore universale. Ecco, noi oggi ripercorreremo le tappe della vita e della carriera di Gabriella Ferri e, come spesso accade, grande carriera e vita travagliata, piena di cose, alcune belle, altre no, però sempre sentite da lei con una partecipazione molto intensa. E sì, lei era quello che i tedeschi definirebbero Sturm und Drang, lei viveva sempre gli estremi, la grande gioia, la grande angoscia, era una donna divertente, spiritosa, con una risata contagiosa, poi però magari stava giorni interi chiusa a casa al buio senza vedere nessuno, grandi sbalzi, è una natura mutevole, ha sofferto di una fortissima depressione, tanto che per molti la depressione è stata la ragione della sua fine prematura, una fine che rimane avvolta da un alone di mistero, di questo ne parleremo più tardi. Intanto la nascita, 18 settembre 1942 a Roma, nel quartiere di Testaccio, Maria Gabriella Ferri, questo è il suo nome per intero. Lei ha una famiglia che avrà un ruolo molto importante nella sua formazione, soprattutto il padre. Ascoltiamo la sorella maggiore di Gabriella Ferri, Maria Teresa. Papà Vittorio era un uomo un po' particolare, aveva un modo di vivere la sua vita tutta sua personale, tant'è vero che Gabriella lo chiamava lo zingaro della famiglia, mentre mia madre era una principessa, era una donna benestante, parlava il perfetto italiano, al contrario di me, di mia sorella, che eravamo più romane, diciamo. Era una vera principessa, ha fatto tanti sacrifici per me Gabriella nell'infanzia, perché dopo la guerra, si sa, insomma, i tempi erano un po' duri. Mia madre era una bravissima sarta, cuciva, lavorava tutta la settimana, mentre mio padre girovagava un po' per il mondo, diciamo. Insomma, quindi due figure di riferimento che sono all'opposto, una madre che parte da una famiglia benestante, educata, elegante, che parla un italiano corretto, e dall'altra parte il padre, Vittorio, uno che non ha un lavoro fisso, il classico romano di borgata, il testaccino. Ascoltate come lo descrive proprio lei, Gabriella Ferri. Il sor Vittorio, il papà si chiama Vittorio. a brillantine a Etti, no? Tutto un po' madato, tutto. Una capoccia di quelle un po' sbieghe, nel senso simpatico della parola. Oddio! È biondo, con gli occhi azzurri, bello da morire, la pelle scura, con una scarpa e una ciabatta che faceva il carrettiere. Ha visto mia madre, figlia di una famiglia col soldo, se l'è sposata e si è giocato tutta a zecchinetta, insomma ci siamo ritrovati a Genzanti. E Sor Vittorio, sì. E Sor Vittorio è uno che si è giocato a zecchinetta tutti i soldi della moglie, e così lei deve rimboccarsi le maniche, si mette a fare la sarta, insomma la famiglia non se la passa bene. Sor Vittorio è anche quello che suona la fisarmonica, che canta, che insegna a Gabriella le canzoni romanesche popolari, insomma è un ribaldo simpatico, ma che poi insomma è un uomo più da incontrare che non da sposare. Ecco, inizia un amore viscerale per la musica da parte di Gabriella, proprio grazie al padre, quello che avrà il merito di indirizzare le capacità artistiche della figlia verso questo genere, il folk italiano. Il rapporto sarà ovviamente un rapporto di alti e bassi, lui le sarà accanto, comporrà anche dei testi, delle canzoni che lei porterà al successo, un rapporto veramente particolare. Gabriella assomiglia molto al padre, bella fin da quando è piccola, è biondissima, sembra quasi albina, il testaccio la conoscono tutti, la chiamano l'angelo biondo. Il destino però le riserva subito una prova durissima quando ha 9 anni, vittima di un incidente che la porta sull'orlo di una tragedia. Ascoltiamo il racconto della sorella. Allora, Gabriella frequentava la quarta elementare, una delle tante domeniche che un nostro caro cugino ci portava a trovarlo nella sua casa di campagna. Purtroppo una di queste domeniche fu fatale, perché lei stava su questa moto di mio cugino tra lui e la fidanzata che era dietro. Purtroppo loro non si sono fatti nulla, invece Gabriella la messa in moto della motocicletta gli si è infilata nella gamba, e purtroppo è stata una cosa bruttissima. Abbandonati lì, non soccorsi. Da lì è andata a finire al San Camillo, purtroppo le cose si mettono molto male, la gamba va in cancrena e ci viene detto che purtroppo c'era l'amputazione della gamba. Eh sì, quindi avete capito, rischio di amputazione della gamba, una tragedia, una vita che sarebbe rimasta spezzata per molti versi. Stiamo parlando del 50-51, quindi con la scienza che era molto indietro, ma anche con la riabilitazione e l'accettazione di handicap del genere, insomma un dramma. E il racconto prosegue con un aneddoto che ha dell'incredibile. Innanzitutto abbiamo frequentato le scuole, i primi anni di scuola, lì nella scuola dove c'era questa mia zia che era la sorella di mia madre. Dopo però è successo questa cosa brutta a Gabriella, che faceva la quarta elementare, e quando è uscita praticamente era passato circa un anno. Però questa mia zia disse alle bambine della scuola che avevano conosciuto Gabriella che volevano andare a fare un pellegrinaggio al Divino Amore a piedi, e tutte le bambine che volevano aderire a questa iniziativa per chiedere che non gli fosse amputata la gamba. Quando arrivammo al Divino Amore era l'alba, mia zia mi disse: adesso ascoltiamo la messa e vedrai che quando torniamo avremo buone notizie. Sono arrivate, il professor Santoro, che allora era il chirurgo di quel padiglione, chiamò mio padre e mia madre e gli disse: rallegramenti, non abbiamo più bisogno di amputare la gamba a Gabriella. Beh, questi sono fatti che per chi ha fede si spiegano benissimo, possiamo definirli comunque l'energia della preghiera, quantomeno. Per chi non ha fede sono più difficili, magari pensano alla casualità. Comunque, di fatto la cancrena regredisce, c'è un periodo di cure e di riabilitazione che durerà un anno. Gabriella viene dimessa dall'ospedale, le rimane solo una cicatrice. Beh, le rimane anche un trauma, il trauma che farà sì che lei lei non riuscirà mai a prendere la patente a guidare, ha perso un anno di scuola, però insomma il peggio è passato, lei diventa un'autodidatta, studia per conto suo, ha una grande tenacia e approfondisce delle materie che lei ama particolarmente, la filosofia, la teologia e però anche la storia di Roma, la storia della sua città che lei adora e l'adora in tutte le sue forme, soprattutto in musica. Gabriella cresce, ormai è diventata una ragazza bellissima, fa sfilate di moda, ovviamente canta sempre, comincia a suonare la chitarra, ma siccome si deve anche mantenere, va a lavorare come commessa in un negozio del centro, comincia ad andare al Bar Rosati di Piazza del Popolo, un bar frequentato dalla cosiddetta Roma Bene, qui conosce gente importante, poi fa un incontro destinato a dare una svolta alla sua vita, siamo nel 63, conosce Luisa De Santis, figlia di Giuseppe De Santis, un grande regista del neorealismo, per intenderci il regista di Riso Amaro. Gabriella ha 21 anni, Luisa ne ha 19, diventano amiche, hanno la stessa passione per la musica, addirittura mettono in piedi un duo folk, cantano canzoni in romanesco. Luisa ama il repertorio popolare, quello che il padre aveva esplorato e che aveva utilizzato nelle sue pellicole. Un anno dopo le due ragazze vanno a vivere a Milano perché lì c'è la discografia, il padre di Luisa ha molti agganci, grazie a Iannacci che è il loro primo fan, le ragazze e cominciano a suonare all'Interas Derby Club, si fanno chiamare le Romanine, qui attirano l'attenzione di un discografico, si chiama Walter Gertler, ha una casa discografica, la Jolly, poi conoscono Mike Buongiorno che le chiama a partecipare a una trasmissione che si chiama La Fiera dei Sogni, è il primo contatto di Gabriella Ferri con la televisione e col grande pubblico, alla Fiera dei Sogni le Romanine cantano una canzone popolare che avevano ascoltato mentre passeggiavano in un mercato rionale, era suonata da un ambulante, la canzone è La Società dei Magnaccioni. Fatece largo che passiamo noi, sti giovanotti desta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà, ma che ce frega, ma che ce porta, se la Salvina ci ha messo l'acqua, e noi è vivo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te paghiamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondevo un coro, è meglio il vino degli castelli che questa sozza società. Sono due ragazze molto belle, cantano bene, hanno il loro repertorio folk che non si limita, diciamo, all'ambito romano, va anche a quello siciliano, insomma piacciono parecchio loro, però la De Santis è molto timida, ha difficoltà a cantare in pubblico, insomma a un certo punto il duo si scioglie, Luisa continuerà la sua carriera nello spettacolo come attrice, Gabriella invece è decisa, vuole diventare una cantante a tempo pieno, una cantante di successo e comincia una carriera da solista, inciderà con la Jolly il primo album che si chiamerà Gabriella Ferri, siamo nel 66, brani bellissimi e per esempio c'è un pezzo sulle carceri femminili romane, molti credono sia un canto popolare romano, in realtà è stato scritto nel 59 da un triestino che diventerà milanese, un certo Giorgio Strehler, il brano si intitola Le Mantellate. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è la grande Gabriella Ferri, una delle più straordinarie figure della canzone italiana, un talento unico che è stato erroneamente relegato nel ristretto ambito delle canzoni dialettali, che peraltro erano belle, erano indimenticabili, però lei è stata molto di più perché ha rappresentato una parte fondamentale della cultura italiana, è stata capace di coniugare il folk con la musica colta, una grande compositrice, una donna sensibile nell'arte e nella vita, una ricercatrice musicale molto raffinata, non è stata solo un'interprete, è stata un cervello creativo, istrionica, affascinante, piaciuta al pubblico di tutto il mondo, il suo è stato un lascito artistico molto grande e lei probabilmente, come molti, andrebbe ricordata più spesso. E allora noi la ricordiamo oggi e siamo arrivati a un anno molto importante per Gabriella, il 66. Lei debutta come solista col suo primo album omonimo, Gabriella Ferri, parte per una tournée in Canada, poi torna in Italia, debutta al Bagaglino, la compagnia teatrale mitica fondata l'anno prima da Pier Francesco Pingitore e da Mario Castellacci, e questo è un grande colpo d'ala per Gabriella, perché proprio al Bagaglino lei comincia a sviluppare quel piglio teatrale clownesco, istrionico, dicevo prima, mette a fuoco quella che diventerà per sempre la sua cifra artistica. E sempre in questo periodo lei conosce un giovane diplomatico, si chiama Giancarlo Riccio, i due si sposano nel giugno del 67, lui però deve partire, è stato destinato a Kinshasa in Congo, lei lo segue, però soffre per questa inattività, non è una donna che può stare all'ombra di un altro uomo, insomma entra in depressione, convince il marito a rientrare a Roma nel 68, poi il matrimonio comunque finirà troppo presto, i due nel 70 già si sono lasciati, e intanto firma un contratto con la RCA ed esce subito un 45 giri che ha molto successo, due canzoni che lei ha scritto col padre, e il lato A lo abbiamo sentito prima, è sceso ormai la sera, si chiama, il lato B si chiama Ti regalo gli occhi miei, poi nel 69 lei va a Sanremo, porta un brano molto bello, scritto sempre dal padre insieme a Piero Pintucci, un grande maestro, un grande compositore di quegli anni. Si chiama Se tu ragazzo mio. Di Ferri Pintucci, Se tu ragazzo mio. Accompagnata dal maestro Pintucci, canta Gabriella Ferri. Se tu ragazzo mio sei sempre triste e solo, non aspetta, passa e se ne va. Ma ascoltate cosa racconta Gabriella a proposito di quella canzone, della partecipazione a Sanremo. Vi ricordo che in quegli anni a Sanremo le canzoni si cantavano in coppia, venivano interpretate da due cantanti diversi. Questa canzoncina l'ha scritta mio papà con un testo veramente, insomma, discutibile. E come non stava bene di salute, io lì per lì mi venne, era un periodo che avevo una grande ispirazione, tu sai che io sono anche autrice di tante canzoni, insomma ho fatto la musica, l'ho fatta sentire alla mia casa discografica, così senza pensare a grandi cose, l'hanno mandata a Stevie Wonder, all'RCA Victor, cioè il settore che si occupava dei dischi all'estero, e Stevie Wonder gli piacque molto e venne, sta cosa mi fece un po' perché erano gli anni in, no? Cui si cantava in coppia, no? L'interprete. Sì, sì, che anni sono? So, mi 69. Ricordo, 69, sì. Naturalmente questa canzone viene eliminata, succede a Sanremo, e non ha neanche successo di pubblico, il disco non venne, insomma è un flop molto pesante per Gabriella. Poi però succede qualcosa di non previsto, lei incide una versione in spagnolo di un brano, si chiama Ti regalo gli occhi miei, lato B del primo 45 registrato con l'RCA l'anno prima, l'avevamo detto prima. Bene, questo disco spopola in Sud America, Argentina, Venezuela, Cile, vende 1 milione di copie in pochi mesi, diventa uno standard che ancora oggi conta molte cover di diversi artisti. Vedete quanto è strana la vita di molti cantanti, di molti artisti. È strano pensare che mentre Gabriella Ferri da noi viene ricordata come una cantante dialettale, quando invece si parla di lei in certi paesi viene legata all'Italia e con precedenti di grande successo. È una storia che si ripete molto spesso. Peraltro la canzone Se tu ragazzo mio verrà capita più avanti, come succede spesso, la canteranno altri interpreti come Nada, come i Camaleonti, e intanto lei inizia una collaborazione artistica molto proficua con una nostra conoscenza, perché ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la puntata su Francesco Di Giacomo, è Vittorio Nocenzi, tastierista, compositore, anima del Banco del Mutuo Soccorso, allora giovanissimo. Lei scrive con lui molte canzoni di successo come Sor Fregnone, e siamo nel 72, Gabriella ha 30 vent'anni, però le succede qualcosa di molto importante nella vita privata, perché durante una tournée a Caracas, in Venezuela, lei incontra un imprenditore russo, Sieva Borza, che scatta un idillio, un amore, una passione travolgente, tre mesi dopo un matrimonio che durerà tutta la vita. Ascoltate il racconto dell'unico figlio di Gabriella Ferri, Sieva Junior. Da quello che mi hanno raccontato sia mamma e papà, mamma era andata in tournée a Caracas, in Venezuela, papà era allora il presidente dell'RCA per tutto il Sud America, e avevano organizzato questa tournée, si erano conosciuti, all'inizio sembrava papà non essere molto interessato, a mamma anche, insomma. Ma era un inizio, un primo approccio molto freddo. Si sono conosciuti meglio, è nato lì un qualcosa. Quella scintilla poi ha portato addirittura a mio padre, c'è questa storia che racconto sempre perché mi rimane impressa, che mamma stava in spiaggia, arriva lui vestito, no? Giacca, cravatta, perfetto, scarpe pulite, tutto come, insomma, come professionale. E arriva in spiaggia e mamma tranquillamente dice: se mi ami veramente vai a farti il bagno vestito. E lui entra con le scarpe, con la giacca, con la cravatta. Beh, bello, no? Comunque Gabriella Ferri si sposa, diventa mamma appunto di Sieva Junior, e inizia per lei una stagione televisiva di grandi successi per tutti gli anni 70, anche per parte degli anni 80, trasmissioni dove lei non solo canta ma presenta e intrattiene il pubblico assieme a dei comici come Oreste Lionello, Pippo Franco, Enrico Montesano, insomma il gruppo del Bagaglino viene diretta da Pingitore, dal grande Antonello Falqui, e lei ha molto spazio all'interno di queste trasmissioni e la sua popolarità comincia a aumentare, ci sono grandi successi, programmi come Biberon, Mazza Bubù, soprattutto Dove sta Zazà. Tutte quando ma grida Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Beh, sentite, mi vengono in mente un bel po' di cantautori italiani che hanno preso a piene mani da questo atteggiamento, diciamo, sonoro recitativo. E Dove sta Zazà, la trasmissione rimane una pietra miliare non solo nella carriera di Gabriella Ferri ma anche nella storia della Rai. Ci sono dei duetti che sono rimasti mitici, ce n'è uno strepitoso a colpi di stornelli con Claudio Villa dove loro se ne dicono di tutti i colori. L'ho visto recentemente, veramente divertente. Lei si guadagna il soprannome di Mamma Roma. Poi questa trasmissione ha una sigla finale che è un vero e proprio capolavoro e diventa uno dei più grandi successi di Gabriella Ferri. Il falco e il gabbiano. Gabriella Ferri è una donna, un'artista dalle mille sfaccettature, canta, compone, inventa macchiette, personaggi, una grande attrice, una pittrice straordinaria, non avevamo ancora parlato, e sono rimaste famose le sue madonne delle quali si circondava, insomma un personaggio veramente a tutto tondo, una madre molto particolare anche. Ascoltate ancora il ricordo del figlio Sieva. Io ero figlio unico, maschio, mio padre era sempre in viaggio all'estero, e mamma sì, quando lavorava era occupata e stava fuori, però c'erano anche dei lunghi periodi quando stava a casa, anche se era sempre occupata, però c'erano dei momenti quando noi eravamo estremamente vicini, quindi sono quelli i momenti che io mi tengo nel cuore. Mi ricordo benissimo quando avevo 8-9 anni, andai da mia mamma e gli dico: mamma, io mi sono innamorato. E lei, invece di magari, no, sentirmi due minuti e poi passare a qualcos'altro, mi mostrava di essere estremamente interessata. E niente, io ero innamorato pazzo. A un certo punto torno a casa e ero pieno di gioia, dico: mamma, mamma, ho detto a Raissa che la amo. E lei mi ha detto che mi ama anche lei. E lei ha saltato con me, ci siamo messi a ballare a casa. Cioè c'era una partecipazione. Le persone, come si sa, le persone che hanno un certo talento sicuramente hanno delle sensibilità molto più spiccate. Cerco la titina, titina, mia titina. Così si diradano le sue apparizioni. Si esibisce nel 96 con il grandissimo Fausto Mesolela, al quale abbiamo dedicato di recente una puntata, ha inciso un album, Ritorno al futuro, poi si è ritirata definitivamente dalle scene nel 2002, sta un po' meglio, partecipa a un programma di un suo amico, un grande intrattenitore televisivo che si chiama Pino Strabioli, una delle persone insomma che sa raccontare le storie, lo ammiro molto. Quando Gabriella non ci sarà più, lui leggerà una sua lettera dove lei esprime tutta la sua tragedia interiore. È il 1977, al culmine dei suoi successi, alla vigilia di un concerto a Napoli, dalla stanza dell'Hotel Excelsior, Gabriella scrive: «Le mie canzoni avrei voluto tenerle in salvo dal crudele mercato che mette in vendita anche le piccole cose dell'anima. Le mie canzoni rendono denaro per mangiare e per mangiare ho scelto di donare quel poco che ho. C'è quasi da ridere quando mi spiegano che siamo squalli di burattini in mano alla legge del denaro. Io credo che l'uomo, la poesia, la scopre quando si libera dalla gabbia». L'inutile poesia, l'inutile convinzione che le canzoni che canto sono salve dalla tragedia della storia mia. Quando mi dicono brava è perché offro il brivido della mia disperazione. E beh, questa è una frase da pelle d'oca, e quando mi dicono brava è perché offro il brivido della mia disperazione. Gabriella Ferri muore il 3 aprile 2004, a 62 anni, muore in seguito alla caduta da una finestra di casa sua a Corchiano, in provincia di Viterbo. E la sua morte rimane avvolta da un alone di mistero che viene alimentato anche dalle voci insistente di una sua depressione profonda. È quello che conta però è il suo lascito artistico immenso. Noi non ci vogliamo immergere troppo in considerazioni sulla sua morte, perché vogliamo parlare della sua vita. E a questo punto noi vogliamo omaggiare Gabriella anche attraverso il ricordo di un altro grande, qualcuno che l'ha conosciuta molto bene, che ha collaborato con lei, è Vittorio Nocenzi. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Enrico, buongiorno a te e a tutti gli radioascoltatori. Noi abbiamo bisogno di te perché stiamo parlando di Gabriella Ferri. Sì. E tu hai avuto un rapporto professionale, insomma, molto bellissimo, intenso, particolare. Tu eri molto giovane, se faccio a far due conti, giusto? Esattamente. 50 anni fa, avevo 16 anni. Ah, vedi. E fu la prima tournée professionale nella mia carriera. Gabriella era una tigre sul palco, aveva una capacità di comunicare come una meteora. Cioè, parlo di meteora non come apparire e scomparire, parlo della meteora come massa incandescente di calore. Era una persona che faceva della musica uno strumento marziano per comunicare con gli altri, che ho sempre creduto che il suo modo di cantare fosse un cantare recitando di altri tempi. Come lei apre bocca e tira fuori il minimo suono, diventa automaticamente un palcoscenico, un teatro, una narrazione di emozioni, di fatti, di luoghi. Lei aveva questa forza di saper narrare con una istintività, un gesto diventava teatro, una inflessione della voce diventava rock. Un attimo prima sembrava la reincarnazione di Nannarella, di Anna Magnani, un attimo dopo una fan di Rolling Stone. No, ma poi hai detto una cosa importante che le cantantine di oggi dovrebbero sottolineare a Biro, il fatto di con un filo di voce saper creare delle emozioni, cioè andare anche per sottrazione, oggi che tutte fanno a chi urla di più, no? Purtroppo non sono soltanto le cantantine di oggi, c'è una società intera che urla per scrivere le idee, perché le telegiornali che fanno? Cioè potrebbero dire è uscito il fiume, è uscito il fiume dalla casa. È per l'intonazione sopra le righe. Cioè, è una società che, siccome è vuota, ha bisogno di stare sopra le righe per avere la sensazione di essere piena di tutte queste cose. Senti Vittorio, e com'era umanamente? Cioè, quando scendeva dal palco, che donna era? La stessa persona. Non c'era un physique du rôle, una scelta di apparire in un certo modo, essendo diversa. L'artista che vedevi sul palco era la donna che parlava con te, cioè un po' volubile retrospettivamente, ma piena di una grande umanità, grande calore. Il sorriso di Gabriella era un sorriso vero, non era una maschera di convenienza. Guarda Enrico, mi fa tanto piacere che voi ricordiate personaggi di questo calibro, perché veramente lei è uno di quei pianeti da riscoprire completamente, profondamente. Lei è una interprete come poche altre, che sapeva toccare la corda del grottesco felliniano, ma lo faceva con uno stile molto personale, così graffiante, anche come fisicità, come presenza, come icona sopra un palcoscenico. Cioè, era qualche cosa che ribolliva, che comunicava una visione della vita, una interiorità fatta di tanti passaggi umani che mi ricordano da vicino anche la ricchezza di sfumature e sfaccettature che erano tipiche anche di Francesco Reggiano. È vero. Quelle persone che fanno della propria attitudine umana un punto di partenza per essere anche artisti. È vero. Non viceversa, artisti che fanno finta di essere uomini. No, sono uomini che non fanno finta, sono uomini che si offrono in quanto tali sotto un colpo d'occhio inusuale, come artisti, come interpreti, ma ecco, diventano poi interpreti non di un repertorio musicale tout court, insomma, semplicemente diventano interpreti di una visione della vita. Bellissimo, grazie Vittorio, un abbraccio. A voi e grazie dell'opportunità di parlare di Gabriella. Grazie. Mi ha fatto molto piacere. Ciao a tutti. Un colpo d'ala complesso, difficile, sofferto, quello di Gabriella Ferri, donna che ha lasciato un segno e della quale forse si parla un po' troppo poco, e noi speriamo in qualche modo di avere colmato una lacuna del nostro pensiero, della nostra sensibilità, della nostra cultura. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.